Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Io vi do un indizio, diciamo così, uditivo, che poi è tutto uditivo per radio, per carità, per presentare la ospite di questa puntata. Sentite un po'? È una bacchetta, ecco, posso già dirvi che è una bacchetta. Non si tratta però della fata turchina, non è la maestrina dalla penna rossa, perché qui, lo sapete, a Storielle ci sono solo personaggi veri, in carne ed ossa, con la loro storia, con la loro biografia, con le loro passioni, i loro gusti, eccetera, eccetera. In questo caso, anzi, come in tutti i casi, a Storielle però ci sono i tre aggettivi con i quali il personaggio di questa puntata può già descrivere brevemente un piccolo, sinteticissimo ritratto di se stessa. Quindi... Allora, vediamo, tre indizi, sì. Direi molto veloce. Molto veloce. Poi direi curiosa. Sì. E poi direi musicale. Beh, diciamo che musicale, ecco, è giustamente... l'ultimo è il vero indizio. È il vero indizio, perché è molto veloce. Ma pensa, chi è il femminile di Bolt, del centometrista? Ma adesso capiremo. No, però sono veloce come tipo di vita e come atteggiamenti, come tutto. Direi di sì, perché, signore e signori, Gianna Fratta, direttrice d'orchestra, una delle pochissime in Italia, una grande direttrice d'orchestra, posso dire, senza offenderti Gianna, che è mostruosa, devo dire veramente mostruosa, perché non soltanto è una grande direttrice d'orchestra, ma nella tua biografia ho trovato di tutto, veramente di tutto, a parte che sei anche laureata in giurisprudenza, quindi non hai seguito soltanto un percorso musicale, che già è moltissimo, sei diplomata in pianoforte e in composizione col massimo dei voti, tanto per non farti mancare niente, poi hai fatto giustamente anche direzione d'orchestra con lode, la laurea 110 su 110, che anche quello vero, vuole sempre il massimo. Poi vabbè, sei titolare, sei docente, no? Titolare di una cattedra di elementi di composizione al conservatorio di Foggia, in più brillantissima carriera da pianista, poi man mano ripercorriamo un po' tutta la tua storia, ma è vero che hai iniziato ad andare al conservatorio a Milano a 7 anni e tu eri talmente ipercinetica che tu ti hanno iscritto a 1000 corsi e hai fatto anche nuoto a livello, cioè hai gareggiato a livello nazionale, mai possibile. Sì, appunto, come ho detto prima, sono una molto veloce, proprio ho questa caratteristica che mi permette di fare molte cose, perché la velocità, facendo dimezzare i tempi, chiaramente permette di fare molte attività, quindi ho fatto sì tante cose, nuoto, danza, sci, tutto, ho fatto veramente tanto nella vita. Però il mio aggettivo mostruoso, mostruosa all'inizio, diciamo che è abbastanza tagliato, perché avendo una vita sola, diciamo, e 24 ore in cui una buona parte si dorme, non grandissima parte, insomma, dici il segreto, insomma, di questo tuo, dell'essere riuscita a fare così tante cose, di essere quello che sei poi. Io penso che sia veramente che sia stata la musica. Infatti io dico sempre ai miei alunni, e consiglio anche alle persone, chiunque mi chiede, di studiare musica, perché secondo me la musica, al di là del fare il musicista, che poi può essere una scelta dettata dai gusti, dal talento, dalle possibilità, dalle passioni, eccetera, ma al di là di quello, la musica secondo me andrebbe fatta da tutti, sia come ascoltatori, ma proprio anche come attore, nel senso studiare uno strumento, perché a mio avviso dà una, proprio un'apertura mentale e sviluppa una parte del cervello che poi consente una velocità di apprendimento in altri campi della vita. Appunto, può essere l'università, piuttosto che lo sport, piuttosto che le passioni, gli hobby, eccetera. Quindi per me il mio segreto non è un segreto, è dovuto alla musica. Io studio musica da piccolissima e secondo me è stato quello che mi ha aiutato poi a poter fare cose molto diverse, svolgendo una vita del tutto normale, nel senso che non mi sono fatta mancare niente, diciamo, ho fatto una vita non da reclusa, uno studio dedita solo al studiare partiture o leggere libri. Ripeto, la velocità mi ha consentito questo, perché ho fatto tutto con molta facilità. Incredibile, incredibile. Gianna Fratta è pugliese, di Foggia, no? Sei? Diciamo che sono nata in Lombardia in realtà, sono lombarda di nascita, sì, da genitori pugliesi e quindi di origine sicuramente pugliese, infatti adesso proprio per stare vicino alla mia famiglia ho scelto come cattedra di conservatorio Foggia. Ecco. Com'è lì la vita in Puglia rispetto a quella che hai fatto in Lombardia, dove dicevamo già a 7 anni era al conservatorio a Milano? Sì, beh, chiaramente ecco, le differenze sono tantissime, no, tra il nord e il sud, ma io amo moltissimo questa regione per la gente che c'è, perché io penso che i pugliesi, ma in generale la gente del sud mi piace, no, perché con tutta la loro, a volte magari pressapocagine, ma in senso positivo, sono così caldi, cordiali, no, però, ecco, caldi e solari, che alla fine veramente si passa sopra a quelli che sono invece poi magari forse le pecche un po' del sud, ma che sappiamo tutti. Però secondo me c'è qualcosa di umano che mi attira, che nel sud mi fa stare bene, e quindi ci sto bene. Sei vincitrice, tra le mille cose, di numerosi premi nazionali e internazionali, hai suonato nelle principali sale italiane, straniere, negli ultimi anni ti sei dedicata appunto in particolare alla direzione d'orchestra, e tu hai avuto degli incontri, sicuramente avrai avuto degli incontri importanti, e poi vorrei chiederti anche chi è che ti ha messo sulla strada della musica, se sono stati i tuoi genitori, una tua ispirazione, hai visto qualcosa alla televisione, hai sentito un amico, non lo so, però sicuramente credo che una personalità importante nella tua vita, Gianna Fratta, sia stata Yuri Aronovich, no? Il grande direttore d'orchestra russo, sì. Che era stato un tuo docente alla scuola, all'Accademia Musicale. Ma lei sa tutto di me. Sì, è stata la persona più determinante sicuramente nella mia vita, ma di gran lunga proprio. Perché tra l'altro lui non solo è stato tuo docente, ma negli ultimi anni di vita ti ha voluta come sua assistente, e aveva detto: non ho mai conosciuto un direttore così giovane e già così dotato di cuore e di braccio. E di braccia, sì, l'ha detto neanche a me direttamente. L'ho trovato scritto dopo la sua morte su un sito internet, perché aveva rilasciato una intervista che conservo gelosamente a Siena, all'Accademia Chigiana, ad una giornalista che era venuta a chiedere quali erano i talenti, come mai avesse accettato una docenza da un direttore così importante all'Accademia Chigiana di Siena, e lui così tra le cose che ha detto a questa signora ha detto: ma io sono stata contenta di questa esperienza anche perché ho conosciuto una direttrice d'orchestra molto giovane, non ho mai visto diciamo una persona così talentuosa sia dal punto di vista del braccio, cioè vuol dire della tecnica, ecco, che del cuore, che è la cosa passione, più interessante. Quindi, dell'interpretazione, l'impeto, l'interpretazione proprio. E infatti ti aveva scritto in una lettera: non avere mai dubbi sul tuo grandissimo talento. Sì, aveva deciso di fare questo corso alla Chigiana proprio per individuare eventualmente un giovane che potesse seguirlo, e quindi io sono stata fortunata, e la giovane l'aveva trovata in te, insomma. Senti, sì, quindi per me è stata una grande fortuna. Storielle, storiacce. Sempre con Roberta Giordano, ascoltatrici e ascoltatori, e sempre diciamo con questa armonia di direzione che è la vita e che è la professione di Gianna Fratta, direttrice d'orchestra, una delle pochissime in Italia. Poi parleremo anche di questo problema, questa minoranza presente nel nostro paese, che è un po' ancora una vergogna, ma poi sentiremo cosa ne pensa Gianna Fratta. Dicevo, diplomata in pianoforte, composizione col massimo dei voti, direzione d'orchestra con lode, laureata in giurisprudenza, ha iniziato a 7 anni al Conservatorio di Milano. Insomma, ne ha fatta tantissima di strada con premi nazionali e internazionali, tanto un po' per sintetizzare, ha persino gareggiato con il nuoto da ragazza, ne ha fatte veramente tante. Però dicevamo, Gianna, prima ricordavi con emozione e con forza questa figura di grande riferimento che è stato per te il direttore russo Aronovich, ma se tu dovessi dire molto prima, quindi visto che tu hai iniziato da così piccola e consigli anche di studiare almeno uno strumento musicale a tutti, perché dici ti dà questa elasticità, velocità nelle cose, capacità di apprendimento, chi e che cosa ti ha detto che quella era la tua strada e ti ha indirizzata su quella strada così presto? Diciamo che l'indirizzo da piccoli viene sempre dai genitori, I miei genitori sono due pedagogisti, quindi hanno ritenuto di farmi fare molte attività, me ne hanno fatte fare tante. Poi chiaramente la passione per la musica è nata abbastanza presto, perché io, la mia insegnante di pianoforte di quando ero piccolissima ha subito intuito che c'era qualcosa un po' di particolare, perché io so orecchio assoluto, che sarebbe questa capacità per la quale riconosco senza riferimento tutti gli accordi, le note di tutti gli strumenti, che è una cosa che stupisce un po' diciamo gli insegnanti. Chi era? Poi Mozart e pochi altri musicisti avevano questa nota. Diciamo che non sono Mozart purtroppo, però ecco, è una caratteristica sì che accomuna molti musicisti, ma non tutti. E quindi niente, questa cosa ha stupito i primi insegnanti. Poi quando feci la missione al Conservatorio di Milano, insomma andai molto bene. Mi ricordo che il maestro Abbado, non Claudio ma Marcello Abbado, allora direttore del, il fratello di Claudio, del direttore d'orchestra, allora direttore del Conservatorio di Milano, mi spronò a continuare. Io in effetti mi piaceva, andavo molto bene in pianoforte, e dopodiché a 12-13 anni ho ascoltato dal vivo il mio primo concerto fatto non dai pianisti ma da un'orchestra, e lì da quel momento ho capito che sì, il pianoforte è bellissimo, ma che la mia strada non poteva essere il pianoforte ma doveva essere in qualche modo l'orchestra. Io avevo capito che quello che veramente mi sarebbe piaciuto era stare sul podio per coordinare tutta questa massa di strumenti, e pensavo, beato quell'uomo che sta lì e che determina il suono, l'interpretazione di 50, 60, 70 persone, cioè mi sembrava una cosa magica, e in effetti lo è. Già subito determinata, ed è una grande fortuna oltre che una grande capacità, è saper già da presto qual è la propria strada, che cosa si vuole fare, e perseverare con passione, no? su quel cammino. Ma in tutto questo, con tutte le cose che hai fatto, con tutto l'impegno che ci hai messo e il tempo necessario per fare tutte queste cose, le amicizie, la tua infanzia, i tuoi rapporti, diciamo una vita normale da bambina, da adolescente, sei riuscita a farla o no? Sì, sì, no, c'è stata, io ho avuto una vita veramente bella, serena, felice, con la mia famiglia, ho tanti amici, poi perché sono una persona abbastanza aperta, quindi ho facilmente instauro relazioni e le mantengo, proprio ho vissuto una vita direi quasi comune sotto questo profilo, perché al di là ecco delle tante attività che forse sono un po' particolari, perché veramente ne facevo tante, però poi dovunque, allora a nuoto, cioè avevo gli amici di nuoto, a danza, c'erano quelli di danza, in conservatorio stavo dalla mattina alla sera, avevo sempre tantissimi amici, quindi no, in realtà ho vissuto una vita sotto il profilo umano, relazionale, molto serena e anche molto intensa, ripeto, molto normale. L'unica vera difficoltà è nata dopo, quando sono iniziati i viaggi, i tanti viaggi, perché chiaramente siccome io sono, non so, 20 giorni in Turchia, 10 giorni in Corea, 7 giorni in Inghilterra, con i viaggi diventa un po' più difficile mantenerle le amicizie, quindi quello che mi manca adesso un po' dal punto di vista, diciamo, della vita ordinaria, relazionale, umana, è la continuità di stare in un luogo. Gianna Fratta, ma prima dicevo che un problema è sicuramente che il tuo mestiere, quello di direttrice d'orchestra, al femminile è ancora una rarità in Italia, mentre in altri paesi addirittura, cioè in Italia fra l'altro nessuna mi pare che abbia la direzione artistica di un teatro, di un'orchestra, mentre succede negli Stati Uniti, in Australia, sì, no? Tranquillamente. Sì, sì, è proprio così, la direzione stabile, credo, di un'orchestra, parlo di orchestre come, non so, ecco, i teatri, riconosciute, ecco, perché certo, forse ci saranno anche piccole orchestre private, non so. Diciamo di quelle più prestigiose, di quelle più conosciute. Ecco, però di quelle veramente importanti, con un riconoscimento istituzionale, non c'è in Italia una donna che abbia il ruolo di direttore principale o di direttore ospite. Nella vita, cioè forse la cosa in cui ho avuto più difficoltà non è stato e non è tuttora studiare, prepararmi, dirigere proprio, ma è trovare la fiducia dei direttori artistici, dei sovrintendenti e degli organizzatori musicali a metterti davanti a un'orchestra, perché c'è questa motivata, non so, idea per cui il direttore d'orchestra è un uomo. E questo è un problema molto grave che spero che con gli anni, ecco, io forse non lo vedrò, però spero. Speriamo che di sì. Perché sei giovane, insomma. È un processo molto lungo, come tutti i processi di culturali. Questo tipo. È lungo. Certo, un cambiamento ci inizia a essere, perché con l'anno scorso sono stata la prima donna italiana a dirigere al Teatro dell'Opera di Roma, sono stata la prima donna in assoluto a dirigere al Festival della Valle d'Itria, che è un festival molto importante, ecco, ma ancora sono eventi, cioè non c'è una continuità, proprio perché è veramente molto difficile. È incredibile ancora adesso, no? In realtà, diciamo che essendo un lavoro non fisico, intellettuale, perché comunque i gesti sono e poi il frutto di un ragionamento, di un'interpretazione, non c'è un motivo per cui il direttore d'orchestra debba essere uomo. È cioè, più forte, i muscoli, no, non c'entra cioè, niente. Proprio non c'è, non esiste, non si capisce, eppure Però vorrei ricordare che, dicevo già, all'estero ce ne sono moltissime, poi c'è Simon Liang, per esempio, che è la direzione artistica dell'Opera di Sydney, quindi un ruolo importantissimo, ma ce ne sono state in Italia nel Novecento e persino nell'Ottocento, e addirittura già nel periodo delle antiche civiltà del Mediterraneo esistevano delle figure femminili e di musiciste che possono definirsi, vabbè, direttrici di coro, di piccoli complessi, però delle antesignane, no? Ecco, quindi. Sì, è vero. Però in Italia siamo abbastanza poche, ma come giustamente ricordavi tu, nel mondo si sta diffondendo, perché in America, in Giappone ci sono delle direttrici d'orchestra donne. Per esempio, io vado a dirigere l'anno prossimo a Macao in Cina, l'orchestra sinfonica cinese, per i quali cinesi non è stato nessun problema di leggere che era una donna, mi hanno chiamato, ma ho capito da come mi hanno trattato, c'era un'abitudine, ecco, già in questo senso. Senti, ma al di là dei gesti, appunto, che dicevo, molto suggestivi di questa figura, no, dei direttori d'orchestra, voglio dire direttrici d'orchestra, dietro c'è tutto un lavoro che forse noi, diciamo, comuni mortali un po' ignoriamo, no? Vediamo questa bacchetta che si muove nell'aria e diciamo, ma e come si farà a ricordare tutto? Tu hai dei tuoi riti particolari, dei richiami mnemonici sulle partiture, che ti disegni, cosa ti scrivi, che fai per... Diciamo, il lavoro è molto precedente al momento del concerto, perché chiaramente la cosa più difficoltosa è proprio lo studio della partitura, lo studio dell'interpretazione, perché bisogna avere qualcosa di nuovo da dire. Non so, vai a dirigere una sinfonia di Beethoven e l'hai sentita fare e dirigere dai più grandi, è chiaro che trovare qualcosa da dire su un testo già interpretato magistralmente da tanti direttori è una cosa molto difficile, cioè bisogna andare molto in profondità e bisogna avere molta fantasia, perché lo studio della partitura avviene mesi prima, cioè io studio moltissimo le linee di tutti gli strumenti, cerco di trovare, ripeto, un mio clima e di immaginarmi tutto. Studio a casa davanti allo specchio, tanta tecnica, il gesto con la bacchetta, poi c'è il momento di confronto con l'orchestra, che è il momento fondamentale dove tutte le idee prendono forma. E lì è il momento magico, secondo me, perché attraverso un gesto tu devi esprimere tante cose, devi esprimere un suono, un'intenzione, un'idea, un clima, devi creare un'atmosfera. È difficile perché veramente lo fai col gesto, allora se fai un gesto morbido il suono verrà automaticamente morbido, perché i musicisti si fanno molto suggestionare dal gesto. Gianna Fratta, mi viene in mente una canzone di Rino Gaetano che dice: Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Adesso non è una domanda sessista, ma per dirti, visto che tu fai 10.000 cose, nei fatti hai avuto una vita intensa, c'è anche tempo, dicevi, per le amicizie diventa un po' difficile perché viaggi per il mondo, per l'amore, per la vita privata c'è un pochino di tempo? Difficile, chiaramente sì, però c'è, nel senso che sono un fidanzato che anche lui è un musicista, un violinista. Allora vi capite. Quindi ci capiamo, ecco, appunto. A suon di musica. Mi segue tanto, nel senso che mi aiuta molto, poi io quando ho bisogno di qualcosa gli chiedo: senti, ma qui col violino come è meglio fare, che arcata metti? Quindi lui mi collabora moltissimo al mio lavoro. Senti, sì. Ma secondo te la musica in qualche modo è una via d'accesso all'infinito, o perlomeno avvicina? Secondo me l'arte in generale. Diciamo, io attraverso la musica riesco forse a trovare, non so, una dimensione spirituale abbastanza profonda e credo privilegiata, ma in generale penso che sia una prerogativa delle arti, cioè proprio una dimensione che solo l'arte, se ci entri dentro e ti lasci andare, ecco, proprio completamente, solo l'arte ti riesce a portare a, forse a quello che è oltre l'uomo, cioè che è oltre anche la nostra stessa esistenza, e quindi dai un valore più giusto, credo, alle cose del mondo. E se lo dice una direttrice d'orchestra come Gianna Fratta. Gianna, in chiusura, io qui la lampada d'Aladino, che cerco di farti sentire, che cosa chiederesti al genio della lampada? Al genio della lampada? Ma io chiederei, ecco, veramente bisognerebbe avere tanti desideri, tante cose da chiedere. Io per me ovviamente chiederei di dirigere sempre, perché io quando sto tanto tempo senza dirigere soffro, proprio sto male, mi manca. Però in generale chiederei forse qualcosa per tutti, cioè chiederei che ci potesse essere una diffusione più capillare nel mondo proprio dell'arte, veramente ci sarebbero così tanti minor problemi che sarebbe un viatico eccezionale per evitare le guerre, ma adesso non vorrei cadere forse nell'ovvio. No, e quindi per una maggiore civiltà, giustamente, esatto, dici, no? Cioè, proprio per una maggiore civiltà. Allora, Gianna Fratta, io ti auguro veramente, e vogliamo vederla Gianna Fratta costantemente sul podio con la sua bacchetta. Grazie Gianna. Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori, e un bacione a te.